Yes, people, questo è Jolly Roger, bentornati, ci siete molto mancati. Ciao, io sono Luca e oggi volevo raccontarvi della vacanza che ho fatto in Emilia Romagna. Mattina, 19 agosto, ero in piedi. Ho fatto subito colazione e mi è venuto a prendere mia zia per andare verso il campeggio. Tappa numero 1, A1 Firenze. Abbiamo preso l'A1 Firenze, dopo qualche chilometro la macchina inizia a prendere fumo, un gran pasticcio, e per fortuna un carro attrezzi ci è venuto a prendere. Siamo andati direttamente in officina, abbiamo chiamato mamma e papà direttamente, che stavano coi quattro cani, che la macchina mia era tutta piena, insomma non potevo andare là. Abbiamo chiamato mio zio Gabriele. Mio padre, prima che venisse incontro da noi, ha chiamato il cugino per farci dare la macchina e l'abbiamo ringraziato. Poi verso mezzogiorno e qualcosa siamo ripartiti dall'officina. Abbiamo pranzato in autogrill, poi verso le 4 e qualcosa siamo appena arrivati e dopo mezz'oretta e qualcosa ci hanno dato il bungalow, ovvero la casetta. La casetta era composta da cucina, letto a castello, due camere matrimoniali, una sotto e una sopra, un terzo letto che sta sotto il divano. Il campeggio era composto da piscina olimpionica, piscina al lago, ristorante, campi da calcio e campi da beach volley e sala giochi anche. E la sera facevano una specie di spettacolo a tutta musica. Io mi sono trovato molto bene. Il campeggio era troppo fantastico. Una volta ho fatto anche il bagno a mezzanotte, mi sentivo di stare in mezzo al buio, insomma. Ho fatto molte esperienze, ho giocato a pallone con delle persone straniere, ci ho fatto amicizia. Insomma, è partita male la vacanza, ma poi. Ma poi è ripartita alquanto bene. Luca, oltre alla tua vacanza, che altro ci puoi raccontare? Del laboratorio di cucina. Allora, quest'anno sono stato aggiunto a un laboratorio di cucina che farò tutti i mercoledì con Matteo, Riccardo, Elena, Alessandro Zarra e Andrea. Cucineremo cose molto buone, faremo le ricette, ci organizziamo per bene. Infatti, nei primi giorni ci siamo organizzati e poi un mercoledì dopo siamo andati al Branca e Ricche ci ha fatto un ottimo caffè. Tu che ricetta hai portato? Io di ricetta ho portato il brownie, sarebbe un dolcetto americano a base di cioccolato fondente. Ok, gli altri invece che ricetta hanno portato, te lo ricordi? Allora, Matt ha portato le crêpe, dolce tipico francese, mentre Riccardo ha portato, chissà, non me lo ricordo. Ok, erano i tiramisù fatti a pallette. Polpette di tiramisù, insomma. Bravissimo. Ok. Luca, ma ti piace questo laboratorio di cucina? Sì, molto, perché quando c'era il Covid, parecchio, ma parecchio Covid, insomma, io ho avuto un'opportunità di andare a scuola e fare le tagliatelle che mi ha permesso di fare la scuola, la mia ex tutor, Prof. Marzullo, e mi sono divertito a fare queste tagliatelle e le ho fatte assaggiare ai miei genitori. Ed è stata una cosa talmente unica che mi ha reso tanto felice che sembra che sono stato a MasterChef. Senti, ma a te ti piacciono tutti i piatti? La maggior parte non mi piacciono tutti, però poco di pasta mi piacciono ravioli, tortellini e cannelloni. Ok, e prima li mangiavi tutte queste cose oppure selezionavi il cibo? No, prima seleziono il cibo, mangiavo polpettone classico dell'Aia e ho assaggiato anche dell'Amadori. Salsicce, condroblè, ma prima ancora mangiavo degli ottimi tramezzini della Lidl. E mangiavi solo quelli? Sì, ma poi con il passare del tempo ho assaggiato pizza margherita, pane al soggiorno e ho assaggiato parecchie cose. Mi sono preso anche una crema Yeppipo che alla nocciola era talmente ottima. Certo, Senti, ci vuoi raccontare un po' anche del soggiorno che hai fatto con la cooperativa? questi così almeno un po' me ne pentisco delle cose un po' che ho fatto, insomma. Vai. Allora, sono stato al soggiorno in Abruzzo, a Montesilvano, provincia di Pescara, con Damiano, Johnny, Marco, Alessandro, Idris, Andrew, Andrea e anche Alaric Federico? e Federico, che ci ho dormito anche. E com'è andata? Abbastanza bene, prima di tornare a casa, ma poi tutto il passato, ci siamo divertiti e abbiamo mangiato, io ho mangiato il pane, ho fatto un po' di scherzetti anche a Lenuccia, che stava con un altro dubbio, e questo io lo confesso proprio, e ci siamo andati anche alle giostre, ma io ho fatto praticamente un incidente proprio col go-kart che mi ha paralizzato la vita, e con i Non go-kart... esagerare, mi sei divertiti, solamente che ti sei messo un po' di paura. Poi ho fatto altre cose, ho fatto una camminata, siamo andati al mare, io ho fatto tipo delle piccole monti, insomma delle montagnette, ho fatto del lago, è crollato tutto, ho rifatto tutto, sono andato anche in piscina, sono andato sott'acqua e insomma mi sono divertito. Dai, via. Ciao a tutti e vi mando un saluto. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di goal play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale. Sopra

occhi aspettando le luci al mattino. Come si sta tra paura e delirio? Fa fare nella notte che se ne va tra le note di una lambada. Che sapore ha la stessa storia di un'estate fa? Questa giungla originale rumba. Solo in mezzo a nulla, il mare che mi culla è blu come la spunta. Un movimento, giù come quando vieni in Salento. Fiero delle radici che ho dentro, lo riconosci già dall'accento. Entro e schiaccio come LeBron. One shot, non stop, incendiamo un'altra console. Urla, urla, ho visto ancora il cielo cadere. Quattro grandi. E diciamo adesso abbiamo iniziato la radio il terzo giorno. Risuscito è la terza stagione del Jolly Roger. Grazie Elena che mi hai aiutato. Vai, e che ci racconti oggi? Le consigli sulle creme corpo. Ok, vai. Allora, oggi vi parlerò di due creme corpo da mettere dopo la doccia sulla pelle asciutta. E la prima crema si chiama Regine dei Prati e contiene petali di camomilla e di margheritina e della pianta Regina dei Prati. Questa crema delicata, rinfrescante, e vi regalerà morbidezza sulla vostra pelle. Invece, se volete una crema intensa, vi consiglio la crema corpo iris con estratti fluidi di iris e di altea, latte di mandorle, dolci, frazione insaponificabile dell'olio d'oliva. Tutte queste creme le potete acquistare all'erborario. Ok, dove sta l'erborario, Ali? Ci puoi dire in zona Montesacro dove lo troviamo? Allora, l'erborario, quello che ho trovato, quello sta al centro di Roma. Al centro, ok. Sì. Ma per caso c'è anche a Porta di Roma, per esempio? Sì, però è piccolo. Ok, invece quello al centro è più grande? Sì, perché ti regalano tutte le creme, quindi è più buono. I campioncini ti regalano? Sì. E dov'è? Via del Corso oppure centro? Ti ricordi dove? Sei presente dove sta? Sì, più o meno dove sta la metro A. Ok, ti ricordi la fermata o no? Sì. Qual è? Mi sembra che la metro A fosse dove sta Barberini. Ok, quindi Alice vi consiglia l'erborario a Barberini. Vicino a Barberini dove Garibaldi, capito? Ok, che altro ci vuoi raccontare? Queste cose qua. Vai. Ricordatevi di mettere la crema dopo la doccia, soprattutto leggere attentamente il foglio illustrato, perché comunque è importante. Se uno ha qualche magari problema alla pelle, che non può mettere qualche prodotto, è importante sempre leggere prima e raccomandarsi che insomma uno la può mettere sulla pelle. Infatti io l'ho scritto. E certo. E poi? Poi io ho provato una crema corpo e tutta la mia pelle si è illuminata, è diventata più morbida. E che vuol dire che quando la crema illumina la pelle, vuol dire che la crema fa effetto alla pelle, la allucina, ma la fa diventare anche nuova, capito? La rigenera, capito? La fa diventare nuova, non è... vuol dire che è una crema forte, potente, perché... E certo, se ce la consigli. E quindi queste creme vanno spalmate su mani, piedi, gambe, braccia, schiena e pancia. Insomma, proprio su tutto il corpo. Un'altra cosa importante di queste creme è che lasciano un profumo molto forte addosso. Per tutto il giorno. Infatti tu profumi tantissimo. Sì, no, perché io poi comunque la mattina mi metto il profumo E certo. e io poi la sera mi lavo, mi faccio la doccia, capito? E certo, è importante prendersi cura del proprio corpo. Sì, io mi prendo cura, diciamo. Ok. Perché io la mattina mi devo sempre profumare. E certo, uno si lava la mattina e si improfuma. Ok, Sì. grazie Ali. Dai. Quest'anno vi... Se mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembra una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la. Lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite. Sarò solo sveglio in tutto l'universo a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli. Guardo il cielo e proprio lì una stella cade. Tu che balli appena uscita da un locale. Dopo un po' la timidezza ti scompare. E ci troviamo a riva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra. Anche il mare ci guarda, sembra lo faccia apposta. Quando penso che io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora, che anche se è tardi. Dormi da me, ti aspetto da una vita intera, intera. Oh, che bella questa sera. Che ormai sei rimasta qui dentro, non è più questione di tempo. Se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volta un cornetto. E poi carichiamo la macchina, senza sapere dove si va. E poi mi innamoro ma capita. Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Quando penso a te io sorrido e se ne frega di tutta sta gente che ci guarda come fossimo matti, ma io vorrei fossimo sempre così. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora che anche se è tardi. Dormi da me, ti aspetto da una vita intera, intera. Oh, che bella questa sera, stasera. Oh, un sogno che si avvera, avvera. Oh, perché io sono pazza, pazza di te. Ok, grazie Ali. Dai. Quest'anno vi presentiamo una nuova rubrica che è gestita da Lupone. Dai. E infatti a chi tocca? Luca. A Luca. E a chi tocca Nunna? Sengrugna. Ok, un altro detto romano che Luca oggi ci ha portato è: i sordi che arrivano col trallallà se ne vanno col tannalledo. Grande Luca, fai un saluto alla radio. Ciao. E un saluto anche a Pietro. Ciao Pietro. Finalmente è arrivato il nostro momento preferito, che sono le battute. Vai Luca. All'udito gli manca l'udito. Il caffè macchiato si lavazza. Se spezzi un CD, lo dividi. Ciao ragazzi. Bentornati. Ciao Matte. Come ogni anno, Matteo ci farà i pronostici delle partite. Ok, e in particolare quest'anno parlerà dello sport in generale. Generale. Per oggi parlerà solamente delle partite del weekend e i suoi pronostici. Vai. Vado. Lete Napoli. Chi vince? Napoli. Oh. Poi? Poi, Zanerita e Zanerana. Poi? Poi, Bologna e Polipite Bologna. Unite Genova, Peter Uninete. Ok, dopo il Genova, dopo ieri la partita da Roma. No, non lo dico, Lena, no. Bravo, vai, poi. Allora, Juve, Peter, la Juve. Oh, poi, Zazzolo. Ok, vi voglio informare del fatto che Matteo sta leggendo le partite, ha letto Roma-Frosinone e per noi romanisti non ha fatto il pronostico. No! Quindi grazie Matteo, vai avanti. Torino, Verona, Pite Torino. Ok. Fiorentina, Cagliari, Pite Fiorentina. Ok, Fiorentina Cagliari dice che vince la Fiorentina. Grazie Matteo. Ovviamente, come dice sempre Pietro, se vincete qualcosa considerateci e venite qua al Branca a portarci un po' di... Donne. E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fai il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato. E fai opposizione, e fai il duro e puro, e fai il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza. Estetista, e fai laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? il bioagricoltore, il noi boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Parlare sempre, non ascoltare. Ridere per fare male. Fare pace per bombardare. Partire per poi ritornare. Una vita in vacanza, una vecchia che balla. Niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta. Per un mondo diverso, libertà e tempo perso. E nessuno che rompe i coglioni. Fatto passi avanti, finalmente canti dell'Italia. Grazie presidente. Però dobbiamo andare avanti, eh? Cambiare. Vero ragazzi? Ti ho vista in giro con quell'aria da bandita. Appena entrato sto cercando già l'uscita. Per fare colpo ho detto più di una bugia. L'orchestra a casa dei non so nemmeno cosa sia. Che bella vita, io voglio sushi e tu la trattoria. Oddio, mi sembra un incubo da sveglio. Confesso, mi hanno tirato in mezzo. Ma immagina se non ci fosse più la discoteca. Sei lontana, piena di luci, fino al mattino, mi ha fatto battere il cuore dagli anni 70 ai 2000. E mai una volta che ci chiamino ad Ibiza, finiamo sempre alla balera dell'Ortica. Per fare colpo di stasera è quasi tutta colpa mia. Che bella vita, non devo fare niente domattina. Torniamo con il fischio nell'orecchio. Confesso che incubo sto pezzo. Ma immagina se non ci fosse più la discoteca italiana, che mi fa ancora ballare la sera anche se sei lontana, piena di luci, fino al mattino, mi ha fatto battere il cuore dagli anni 70 2000. Se vuoi ballare, balliamo questo brano italiano, dove pensi di scappare, manchi tu, manchi tu. Tanto ormai ti hai incastrato come un coro da stadio. Poi non esce più la discoteca italiana, che mi fa ancora ballare la sera anche se sei lontana, piena di luci fino al mattino, mi ha fatto battere il cuore dagli anni 72.000. La discoteca, la discoteca, la discoteca italiana. La discoteca, la discoteca, la discoteca italiana. Eravamo in tre da Milano Est, treno delle 10:30 verso sogni che un'umanità non ci basterà, mentre ballo incontro lei e mi fa: se ti va di là c'è un altro mondo che ci capirà, torniamo a casa un altro giorno. La fine del mondo per me sei te, sei la fine del mondo. E se ti va di là c'è la fine del mondo. La fine del mondo per me sei te, sei la fine del mondo. In te c'ho a fondo la fine del mondo per me sei te, sei la fine del mondo. In te c'ho a fondo le peggio cose che stasera farò, già lo so, saranno i migliori ricordi che avrò. Ci sta salendo, siamo al momento clou, non so più dove finisco io e cominci tu. Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara, tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana, baby lascia chi ti lascia. Smetti di cercare un senso, salva, assieme a me verso un altro universo. Guarda la fine del mondo, ho pagato il biglietto. La fine del mondo. Per me sei te, sei e questo è il Jolly Roger. Te c'ho a fondo la fine del mondo. Per me sei per me Jolly Roger la fine del mondo. Te c'ho a fondo. E se ti va di là c'è un altro mondo che ci capirà, torniamo a casa un altro giorno. Sei fine del mondo, in te c'ho a fondo. Sei, sei fine del mondo, in te c'è a fondo. Sei fine del mondo. E se ti va di là c'è la fine del mondo. Oltre al pronostico, Matteo oggi ci voleva dare qualche consiglio sul pranzo della domenica. Vai, Matte. Gnocchi con guanciale pecorino. No, 250 grammi di gnocchi. Una cipolla. 3 foglie di sabbia. 3 grammi di guanciale a coppetti, 50 grammi di pecorino, sale e pepe. Eh? E buon appetito! Buon appetito! Allora, Matte, come Luca ci voleva raccontare del laboratorio del mercoledì che facciamo qua al Branca della cucina. Vai, Matte! Allora, diciamo i pizzetti. Matteo ci sta raccontando tutte quante le cose che abbiamo cucinato l'anno scorso. Pizzette, poi? Poi, piccotti, pizza. La pizza. E il caffè, il tè, il arancio. Sì, la spremuta d'arancio. E poi IPA. Pacchi. E poi abbiamo fatto tante altre ricette. E senti un po', ma ti diverti al laboratorio della cucina? Ti piace, Matte? Sì. E che cos'è che ti piace di più nel laboratorio? Giulia, vorremmo nella cucina... nella cucina... vogliamo, ma... Ok, a Matteo dice che gli piace appunto cucinare, ma ti piace cucinare da solo o insieme a tutti gli altri? Tutto. brullarli. E senti una cosa, quando cuciniamo, ognuno fa qualcosa o fate tutto insieme, tutti insieme? Tutti insieme. Ok. Senti un'altra cosa, ma le signore del gas, perché oggi non ci sono, che è venerdì? Perché stanno a casa. Stanno a casa perché le signore del gas che vendono i prodotti, prodotti ricominceranno a vendere i prodotti il mercoledì. Il mercoledì. E noi daremo una mano nella vendita. Vero. Fai un saluto. Ciao. E ecco di nuovo il nostro Luchino che, come ogni anno, ci parla delle offerte. Di che supermercato? Dei supermercati Gross e Tigre, che vendono i prodotti della consiglia. Sono prodotti eccellenti. A parte il mais che mi hai consigliato a me, che altro che consiglia. Vai. Aspetta, lo dico forte. Pepsi in lattina, 50 centesimi. Taralli a vari gusti della consiglia, a 1,99 euro. Quali sono i gusti? Pomodoro, classico. Formaggio e peperoncino. Ok, dunque quali ci consigli? Li assaggiati? Sì, l'originale è davvero pugliese. Quindi il classico. Ok, ma senti, sono taralli grandi oppure sono piccolini? Sono medi. Ok. E poi hai altri prodotti? Canneggina Ace a soli 20 centesimi. Ok, ci vuoi dare altri consigli sui vari supermercati alle nostre casalinghe? Certo, a tutte quante le casalinghe che puliscono la propria casa con certi prodotti, volevo darvi alcuni consigli su certi prodotti per avere un'ottima pulizia. Tipo sui piatti. La consiglia vende dei buoni prodotti per piatti, alcuni prezzi fissi anche. Per esempio, il sapone piatti Lime della consiglia viene a soli 1,39 euro. E volevo dire anche che Prille è migliore di Finish, perché Finish è il più costoso, perché costa ben 6 euro, mentre il Prille ti costa soli 4 euro, perché è più conveniente per la lavastoviglie. Altrimenti che fai, lavi tutti te? Che fai, te ne privi? E se ad esempio in una lavastoviglie hai qualche, diciamo, sapone per i piatti, oltre questo ci ha consigliato da darci? Del Mauris. Ok, ti ricordi il prodotto? Limone e zenzero. Molto fresco e... A soli 2,20 euro. Ok, grazie tante Luca. Grazie, arrivederci. È tornato. Ballo da solo, apro le mie braccia al vento, chiudo gli occhi e prendo il volo per dimenticare tutto quello che di giorno provo. Ballo come un pazzo fino all'alba, fino al giorno nuovo. Ho visto tante persone perfette fingere che non si sporcano, delle bugie, delle menzogne mai dette, quelle pensate non contano. Ho detto cose che non vanno dette perché feriscono, come se fosse davvero importante essere lì. Se non c'è uno scopo, soffoco se resto sotto. Fatevi sotto, ma dove sono? Dove mi trovo? Faccio uno sbaglio dietro l'altro, come mi muovo? Ma ho camminato così tanto, taglio il traguardo, forse sto sognando. Gli incubi non mi raggiungeranno fino al giorno nuovo. E ballo, ballo, ballo fino a perdere ogni senso. E canto, canto, canto. Shit. nemmeno io chi sono. Amici intorno ma la musica è il tesoro. Ascolto un disco vecchio, scrivo un pezzo nuovo. Vorrei dirti cosa provo ma non trovo modo, perché dormo poco nella notte, mi sveglio e ballo da solo. Apro le mie braccia al vento, chiudo gli occhi e prendo il volo. Per dimenticare tutto quello che di giorno provo. Ballo come un pazzo fino all'alba, fino al giorno nuovo. Nella notte mi sveglio e ballo da solo. Apro le mie braccia al vento, chiudo gli occhi e prendo il volo. Per dimenticare tutto quello che di giorno provo. Ballo come un pazzo fino all'alba, fino al giorno nuovo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Come ben avete ascoltato, non c'è Pietro. Però sta comunque dietro le nostre quinte. Grazie Pietro, ti mando un bacione. Grazie a tutti per essere stati qui. E una buona serata. Ciao a tutti, vi mando un saluto grande e ci vediamo il venerdì prossimo con una nuova puntata. Seguiteci sui social. Ciao Piero, saluto tanto Giovanna Mirra, ascoltateci sul social. Come ha detto Matteo, seguiteci sui social Facebook e Instagram. E ora i ragazzi vi faranno un saluto. Saluto. Ciao a tutti. E da dietro la regia non poteva non mancare il mio saluto. Un saluto a Matteo, Luca, Lucone, Alice, Elena, Chiara, Martina e Federico. Vorrei fare come al poligono e sparare a un politico. Finirei al telegiornale, o almeno così dicono. Non ci tengo a fare del male, no, solo se mi costringono. Voglio andare sul lungomare, sopra una Lamborghini, bro. Quando arrivano i soldi e la fama, i veri amici dove sono? Ero dentro una villa di lusso a Los Angeles, sì, ma da solo. Mi cercherò tra le nostre giornate estive, tra i discorsi della gente che non mi vuole. In una promozione di fine stagione, dietro ai fallimenti di un genitore. Sopra una stella che non è una stella, perché si muove. Prendi tutto e vai, prendi tutto e vai. Sopra una stella che non è una stella, perché fa rumore. Vivere in Italia sembra non essere più sicuro. Chiama l'112, non arriverà nessuno. Pronto? Italiano, Pablo e Chapo, rifarei tutto da capo. Mille scarpe che ho comprato, anche se non reggo il passo. Chi fa i soldi ce li ha da sempre, la mia banca è indifferente. Fuori c'è un mare di niente, servirebbe un salvagente. Mi cercherò tra le nostre giornate estive, tra i discorsi della gente che non mi vuole. In una promozione di fine stagione, dietro ai fallimenti di un genitore. Sopra una stella che non è una stella, perché si muore. Prendi tutto e vai, prendi tutto e vai. Sopra una stella che non è una stella, perché fa rumore. Tutti amano il paese della moda a forma di stivale di Gucci. Tutti vogliono vedere una volta che sali a cosa rinunci. Non lo vedi quanto è bella la barca al mare, perché non ti butti? Pure io da ragazzino al bar incontravo sempre dei bulli. Per quest'anno non cambiare, stessa faccia presa male. Frate siamo in troppi pare, e fa un caldo tropicale. Io vorrei spendere tutto per un'astronave e portare il lungomare.